Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms, oggi sarete con me, domani torna Sebastiano Barisoni. Nemmeno abbiamo iniziato che già ci arriva un sms dell'ascoltatore che, a dir la verità, mi ha scritto già, è sempre lo stesso, e mi ha scritto anche ad effetto giorno, e dice: per la consulta, il blocco degli stipendi ai dipendenti pubblici fermi da 6 anni è costituzionale? Come abbiamo già detto, sono pendenti dei ricorsi su questo presentati dai sindacati, anche se la consulta in passato su questi temi si era espressa negativamente, nel senso che aveva detto che erano costituzionali, oppure aveva detto sono incostituzionali, però i soldi non vanno restituiti. Ne parleremo di questo nella seconda parte approfonditamente con il collega del Sole 24 Ore Davide Colombo, che di questi temi si sta occupando da giorni e che ha anche un'idea di quali sono le soluzioni che si stanno profilando da questo punto di vista. Il riferimento, lo ricordo per chi insomma si fosse messo non solo all'ascolto solo adesso, ma insomma all'ascolto adesso e da 3 settimane non leggesse giornali e radio, il tema è la sentenza della Corte Costituzionale che ha deciso che di annullare la norma contenuta nel decreto Salva Italia, che bloccava l'indicizzazione delle pensioni all'inflazione, quelle 3 volte sopra il minimo, per 2 anni, il 2012 e il 2013. E il tema sono i soldi che lo Stato deve restituire. Il governo sta pensando come e quanti, anche se sentiremo chi ha fatto ricorso questa prima volta, dice no, lo Stato deve restituire tutto, non ci sono dubbi, altrimenti ricorreremo di nuovo, evidentemente con nuovi rischi ulteriori per i conti pubblici. Posto che il problema che pone l'ascoltatore, che mi sembra un filino ossessionato da questa vicenda, ma lo capisco, magari un dipendente pubblico al minimo dello stipendio e ha bloccato lo stipendio da 6 anni, quindi per certi aspetti è comprensibile, quella sarebbe una bomba sui conti pubblici mostruosa, perché se lo è questa delle pensioni, immaginatevi quella sugli stipendi dei dipendenti pubblici. Non è il solo tema che tratteremo oggi, tratteremo la Grecia. Sembra, qua citiamo un collega che va in onda la mattina, Alessandro Milan, anche questa è la settimana decisiva per la soluzione della questione greca, ma pare che veramente siamo alle ore conclusive della trattativa. Ne parleremo con Vittorio Darold del Sole 24 Ore, che segue sempre queste vicende. E poi l'altro tema è quello del petrolio. Abbiamo deciso di affrontarlo perché ieri è stato presentato un rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, che è interessante perché nel fare un po' i conti sui risultati dell'operazione messa in campo sostanzialmente dall'Arabia Saudita, che ha contribuito a tenere bassissimi prezzi del petrolio, a farli abbassare bruscamente e poi a tenerli bassi in questi ultimi mesi, è una strategia che ha portato per esempio al fermo del 60% degli impianti petroliferi americani, quelli che utilizzano la tecnica del fracking, in sostanza quei pozzi petroliferi che vanno a scavare, rompono la roccia ed estraggono petrolio. Bene, il 60% è fermo a causa di questi prezzi bassi del greggio che continuano a rimanere bassi. Un funzionario saudita, citato dal Financial Times, che ha voluto rimanere anonimo, ha detto: la nostra strategia sta funzionando. Quello che vorremmo capire, e che cercheremo di capire, è quanto durerà effettivamente questa strategia saudita. Questi 3 temi principali della giornata di oggi. Ci occuperemo, come è naturale, anche di mercati, come facciamo tutti i giorni. Più 1,19% il FTSE MIB oggi, più 1,06% il FTSE All Share, positive anche le altre borse europee, con Francoforte che guadagna l'1,7%, Parigi l'1,33%, Londra lo 0,39%, i titoli sul listino milanese si muovono molto in queste ore sulla base delle trimestrali. Per esempio è stata ben accolta quella di Generali, che guadagna il 3,5%, bene Atlantia il 2,9%, Luxottica il 2,8%, Mediaset il 2,3%, Autogrill il 2,2%, Banco Popolare il 2,24%. In fondo al listino troviamo Ferragamo che cede il 5,2%, Moncler il 3,39%, ma da dire che ieri aveva corso decisamente parecchio, la Popolare di Milano che cede lo 0,69%, Saipem che perde lo 0,47%, e con questo i titoli negativi sul listino principale sono finiti. 349-238-6666 per i vostri SMS, le notizie in breve di oggi. In questi minuti, tra l'altro, stanno parlando in una sorta di colloquio. Al Fondo Monetario Internazionale a Washington, il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, e il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde. Draghi dice: le misure prese dalla BCE hanno fatto cadere i tassi dei prestiti bancari all'economia reale. Bisogna dire che dai segnali che stiamo ricevendo, anche dagli ascoltatori, da quello che ci dicono, questa cinghia di trasmissione non è esattamente completa. Qualcosa probabilmente si sta muovendo. Dice Draghi ancora: dopo gli effetti sul credito e sulle aspettative, la cosa più importante è che le misure della Banca Centrale Europea, ossia l'acquisto dei titoli di Stato, abbiano altrettanto effetto su investimenti, consumi e inflazioni. I primi due dipendono strettamente anche dalle condizioni nelle quali vengono concessi i prestiti bancari. Ritorniamo al punto di prima. Dice Christine Lagarde, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale: la BCE, con il varo del suo programma di acquisto di titoli di Stato, ha fatto molto per prevenire la minaccia della deflazione e sostenere la domanda debole. Dice ancora Lagarde: pochi hanno mostrato una leadership come Draghi. Mario, il tuo lavoro è uno dei più difficili. Verticati complimenti. Draghi è un uomo di eccezionale intuizione, fiera determinazione e soprattutto coraggio. Un filo di retorica, però, diciamo che il giudizio che avete sentito esprimere in questa trasmissione, non solo da me ma dal titolare, sull'operato di Mario Draghi, lo conoscete. Le materie prime, l'oro si mantiene stabile sopra la soglia dei 1200 dollari l'oncia, a 1213. Per quanto riguarda invece il prezzo del petrolio, il prezzo del greggio, il WTI, quello quotato a New York con consegna a giugno, in calo dell'1,01%, sotto i 60 dollari al barile. Il Brent praticamente in pari a 66,78 dollari al barile. Importanti dati che sono arrivati dagli Stati Uniti, anche questi hanno contribuito a spingere i mercati. Tra l'altro non vi ho detto come sta andando la borsa americana: il Dow Jones guadagna lo 0,78%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,65%. I dati sono quelli sui sussidi di disoccupazione, che sono ai minimi dal 2000. La scorsa settimana meno 1000 a quota 264.000, il dato è migliore delle attese degli analisti che scommettevano su quota 273.000. Questo dato che vi abbiamo fornito, questo termine di paragone ai minimi dal 2000, da segnalare che è un dato che riguarda la media delle richieste nelle ultime 4 settimane ed è un dato per certi versi più importante, perché è un indicatore meno volatile di un indicatore settimanale. Le questioni della Grecia che sono state affrontate anche in queste ore a New York. Il portavoce del Fondo Monetario Internazionale, Jerry Rice, dice: come ho già detto, il nostro scenario di base è che la Grecia resti nell'area euro. Mentre le trattative fra il governo di Atene e i suoi creditori sono arrivate alla fase finale, riferisce l'agenzia ellenica ANA MPA, citando fonti vicine al governo che hanno partecipato al Consiglio dei Ministri che si è concluso a tarda notte. Il ministro greco Varoufakis dice che la Grecia non punta ad un haircut del debito, il livello del debito è insostenibile, ma per Atene deve essere ridisegnato e non tagliato. E nella giornata di oggi la borsa chiude in rialzo, un più 0,5%, e c'è meno tensione sui titoli di Stato. Il governatore della Banca Centrale Inglese, Mark Carney, ha chiesto che il referendum sulla permanenza di Londra nell'Unione Europea venga fatto nel tempo più rapido possibile. E questo perché c'è attenzione agli operatori economici che vogliono sapere qual è il destino di Londra. Il governatore ha aggiunto che gli imprenditori stanno continuando ad investire anche di fronte a una certa incertezza politica connessa alle recenti elezioni e al futuro referendum. Downing Street ha risposto dicendo: è previsto entro la fine del 2017, dopo il negoziato con Bruxelles, sul rimpatrio di una serie di poteri. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per venire all'Italia, parla dal Salone del Libro di Torino, dice che c'è un eccesso di pessimismo, bisogna volgere lo sguardo al futuro per dare una ripartenza all'Italia, il futuro è nelle nostre mani. Intanto la cosa che più pesa sul nostro futuro cresce perché il debito pubblico è aumentato in marzo di 15,3 miliardi a 2.184, superando il precedente massimo di 2.169 toccato nel mese di febbraio. I dati sono della Banca d'Italia. Segnala anche che le entrate in marzo sono cresciute dello 0,6% a 27,7 miliardi, in linea con il primo trimestre del 2014, il primo del 2015 a 85,7 miliardi. Dice il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi: i dati sul record del debito pubblico a marzo erano attesi, credo che sia un meccanismo tecnico. Tutti gli istituti nelle previsioni avevano stimato che quest'anno il debito sarebbe aumentato. Bisognerebbe cominciare a pensare, come dargli torto, a tagliare la spesa pubblica. Ancora Squinzi, che dice che le detrazioni per l'efficienza energetica degli edifici, anziché essere rinnovate di anno in anno, dovrebbero diventare strutturali almeno fino al 2020. L'efficacia è lo strumento per attivare la domanda e ottenere risultati di risparmio energetico è comprovata, dice Squinzi. E aggiungiamo noi perché chiede che diventino strutturali: per dare certezza agli investitori, cioè se c'è qualcuno che vuole investire in questo settore o pensare a un impianto di questo genere, c'è bisogno che abbia un minimo di certezza pluriennale su questo investimento e non il fatto che quest'anno gli incentivi ci sono e l'anno prossimo non ci sono più. Aperture dal governo col sottosegretario dello sviluppo economico Simona Vicari, che dice: il prossimo passo è rendere strutturali le misure di medio e lungo periodo per fornire certezza ai cittadini e una stabilizzazione della crescita. Certezza ai cittadini e agli imprenditori, aggiungiamo noi. La questione delle pensioni, sulla quale vedo che continuano ad arrivare dei vostri sms. Claudio da Torino, ci avete detto per 20 anni che le sentenze si applicano, adesso si interpretano. Ripeto, Claudio, non sappiamo che decisioni ha intenzione di prendere il governo e non sappiamo in realtà, anche ad una lettura della sentenza della Corte Costituzionale, che vi consiglio di andare a fare, lo trovate sul sito della Corte Costituzionale, quali margini effettivamente la Corte Costituzionale possa concedere da questo punto di vista. Perché, come forse è normale in una sentenza, non specifica le cifre, però parla di una penalizzazione particolare per i pensionati con redditi più bassi. Il blocco dell'indicizzazione partiva dalle 3 volte il minimo, ossia circa 1.400 euro lordi. C'è da capire effettivamente che cosa intendesse la Consulta, perché se il governo, per ipotesi, decidesse che dai 5.000 euro lordi in su non si paga più l'indicizzazione, sarebbe un rispetto formale della sentenza della Corte Costituzionale. Come capite, non è chiarissimo a tutti gli effetti. Detto ciò, vedremo che decisione prenderanno. Di certo noi sappiamo questo: oggi, ad effetto giorno, abbiamo intervistato Guido Carella, chi è il presidente di Manager Italia, l'associazione che Confedermanager ha assistito e sostenuto anche finanziariamente per le spese legali quanti hanno fatto ricorso contro la norma, appunto, sulla perequazione pensionistica bocciata dalla Consulta. E gli abbiamo chiesto proprio questo, perché il governo sta ipotizzando due strade. Una è quella di fermarsi non oltre una certa cifra, per così dire. L'altra è quella di restituire solo un anno tra 2012 e 2013. Carella ha detto: non ce ne importa niente, devono restituire tutto. Sentiamo. Un intervento che preveda rimborsi solo ad alcune fasce di pensionati, oppure, come diceva lei, una graduazione con restituzioni parziali, sarebbe ancora una volta, a nostro avviso, illegittimo. Noi siamo pronti, nel caso dovesse essere questo tipo di decisione, a rifare un ulteriore ricorso alla Corte. Tra l'altro, tutti quelli che percepiscono oggi un trattamento superiore a 3 volte il minimo saranno legittimati a chiedere il rimborso della rivalutazione non corrisposta per il 2012 e per il 2013, e tra l'altro anche a chiedere le rivalutazioni sulla base su una diversa base di calcolo che tenga conto di questo recupero anche per il 2014 e il 2015. Quindi, noi non abbiamo una chiusura pregiudiziale, però aspettiamoci che se il governo non ascolterà le eccezioni, i pensionati potranno fare ricorso facendo valere questa eccezione pregiudiziale di incostituzionalità, e questo, diciamo, porterebbe ulteriori scompensi alle casse dello Stato, perché allo Stato toccherà pagare anche le spese processuali e gli interessi. E il tutto, c'è qualcuno che ci scrive su questo, il tutto si innesta in un grande dibattito su come anche ripensare parte del sistema pensionistico, tutto il tema, il grande tema vero dei cosiddetti diritti acquisiti, di tutti quelli che sono andati in pensione col retributivo e di tutti quelli che saranno costretti ad andarci col contributivo. Ci torneremo alle 18:10 senza dubbio, così come toccheremo anche il tema dei possibili ricorsi in merito al blocco degli stipendi del pubblico impiego. A proposito di pubblico impiego, dice il ministro Madia, se necessario ci sarà un intervento dello Stato per quanto riguarda gli esuberi delle province. Abbiamo un'apertura di credito nei confronti dei territori, ma se non fanno bene il loro lavoro in ultima istanza, sappiamo che abbiamo le risorse e gli strumenti per ricollocare noi, dallo Stato, le persone. L'operazione per gestire la mobilità, appunto, dei dipendenti delle province. Ricorda Madia che sono state bloccate le assunzioni per tutto il 2015 e il 2016 e che l'orizzonte che ci si è dati per completare il percorso è proprio la fine del 2016. In tutto ciò, una buona notizia. Secondo l'ICE, l'Istituto per il Commercio con l'Estero, l'Italia è tornata a trarre investimenti diretti esteri che si erano sostanzialmente azzerati nel 2012. Tutto questo è contenuto nel rapporto Italia multinazionale. I flussi in entrata sono passati dagli 0,09 miliardi di dollari del 2012 a 17 miliardi nel 2013. So che adesso ci accuserete. Li vedo già gli sms, eh? Che parliamo troppo bene della situazione italiana, no? Abbiamo parlato anche del debito pubblico. Questi sono dati, sono numeri, li forniamo così come sono. Ultima notizia che vi voglio dare, le parole del amministratore delegato delle Ferrovie, Michele Lia, che parla della privatizzazione entro maggio. Ci siamo quasi, ci sono ancora degli adempimenti amministrativi che si stanno completando. Si sta lavorando regolarmente, l'obiettivo rimane il primo semestre del 2016, maggio naturalmente del 2016, gli adempimenti saranno completati a breve, l'advisor verrà scelto entro fine mese. E siamo, prima di parlare di Europa in termini di Grecia, ai 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore, in collaborazione con RDS, che vanno in onda anche su RDS, oggi sono dedicati all'accordo sull'immigrazione. Sono curati da Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Per curare il tuo giardino, scegli gli attrezzi di qualità stile Viking. Scopri le promozioni e i rivenditori aderenti su stil.it e amailtuoverde.it. Vi presenta... I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Come dobbiamo valutare l'accordo europeo sui migranti? Il conto è presto fatto. Più di 2/3 delle domande presentate finora dai rifugiati che richiedono asilo sono state indirizzate a 4 paesi dei 28 dell'Unione: Germania, Svezia, Francia e Italia. La Germania ha accettato l'anno scorso il 35% del totale delle domande, la Svezia il 18%, la Francia e l'Italia poco più dell'11%. Se passassero i nuovi criteri di ripartizione decisi l'altro giorno a Bruxelles, i paesi più popolosi e più ricchi dovranno aprire le porte più degli altri, seppure tenendo conto di attenuanti quali il livello di disoccupazione e il numero dei rifugiati accolti finora. Gran Bretagna, Danimarca e Irlanda, come è noto, si sono sfilate e non accetteranno alcuna quota. La ricollocazione dei migranti dovrebbe quindi avvenire tra gli altri 25 paesi, secondo un criterio che comunque rimane basato sulla volontarietà. Lo scenario più credibile, in fase di elaborazione tuttora a Bruxelles, è questo. Alla Germania verrà assegnato poco più del 18% del totale dei rifugiati, alla Francia il 14%, all'Italia il 12% e poco meno del 10% alla Spagna. In sostanza Berlino vedrebbe diminuire di molto il proprio impegno, che invece dovrebbe aumentare per Parigi e restare più o meno invariato per l'Italia. Forse non è un caso che l'atteggiamento tedesco sia cambiato radicalmente, ma forse non è nemmeno il caso di sottilizzare su questa solidarietà, per così dire, interessata. L'importante è che l'Europa dia un segnale rilevante di voler gestire in modo comune e solidale il flusso che proprio gli uffici di Bruxelles stimano sarà pari a 50 milioni di persone nei prossimi 50 anni. E sono stime molto, molto, molto prudenti. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Avete sentito dell'Europa sui migranti? Ci torniamo tra poco sull'Europa, ma per parlare di Grecia. State ascoltando un programma offerto da... Made in Steel, l'acciaio mondiale si incontra a Fiera Milano dal 20 al 22 maggio. Proprio in questi minuti si fa qualche conto, lo fa l'ufficio parlamentare di bilancio e ci dice che una pensione 3,5 volte il minimo dovrebbe ricevere di arretrati circa 3.000 euro. Questo dicono le agenzie. Nel frattempo, durante la pausa pubblicitaria, sono andato a vedermelo il documento dell'ufficio parlamentare di bilancio e vi dico che per esempio una pensione 9 volte il minimo, e siamo su cifre discrete, credetemi, un pensionato 9 volte il minimo riceverebbe di arretrati 7.000 euro. Ci arriveremo tra poco, intanto ci occupiamo di Grecia e saluto Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Vittorio, buonasera. Buonasera a voi. Atene oggi ha chiuso il rialzo, più 0,5%, ancora una volta in questo gioco nel quale un giorno si acuisce la tensione, il giorno dopo la tensione si allenta. A che punto siamo oggi? Sì, oggi il ministro Varoufakis ha riproposto il problema del pagamento dei bond in mano alla BCE che scadrebbero a giugno, luglio e poi un'altra fetta ad agosto per una bella cifra di 6,7 miliardi di euro. In realtà la BCE ne ha in pancia ben 27 miliardi di bond greci che vennero acquistati nel 2010-2012 dall'allora presidente della BCE Jean-Claude Trichet. Ecco perché oggi il ministro Varoufakis chiede che questi bond, questa massa appunto di debito, venga in qualche modo riscadenziata, cioè riportata più avanti. In realtà Varoufakis l'aveva già proposto questo a febbraio scorso, quando aveva chiesto di legare alla crescita questi bond. Insomma, si pagavano ma solo quando ci fosse stato il paese in crescita, e guarda caso Atene è tornata proprio in recessione ieri. E oppure aveva proposto dei cosiddetti bond perpetui, cioè dei bond senza scadenza, ma erano state tutte proposte che erano state bocciate dai creditori. La situazione quindi è ancora molto volatile, nel senso che Atene cerca di trovare un compromesso tra il finanziamento e le riforme indigeste però alla popolazione e al governo, perché ha vinto le elezioni proprio promettendo di non fare altra austerità, e invece le promesse dei creditori che chiedono di fare appunto almeno delle riforme sulle pensioni e sul lavoro. Tutto questo quindi ritorna torna quindi ancora una volta nel campo greco, che però non ha trovato ancora una soluzione. Una quadra, Vittorio, perché anche oggi Varoufakis torna a dire: la Grecia ha raggiunto un'intesa su gran parte dei punti in discussione con i creditori internazionali, ma io ho l'impressione, immagino che ce l'abbia anche tu visto che lavori quotidianamente su questi temi, ho l'impressione questa frase di averla già sentita molte volte dalle varie parti in causa, non solamente da Varoufakis, per poi ritrovarmi con magari dei documenti presentati dalla Grecia che i creditori ritengono insufficienti o condizioni poste dai creditori che la Grecia ritiene inaccettabili. Sì, esattamente, c'è come una difficoltà di comprendersi, perché il governo greco è stato eletto su una base di un programma che prevedeva la riduzione dell'austerity e quindi un investimento per la crescita. I creditori invece chiedono che questo surplus che si era realizzato venga utilizzato per pagare prima i debiti e poi eventualmente per dare appunto qualche spunto alla crescita. È su questo che non si riesce a trovare una soluzione. In realtà, dopo ben 6 anni di questa crisi, è il debito che è, secondo la statistica della Commissione europea, al 180,2% del debito. È evidente che questo debito non può essere, non può continuare così, perché doveva essere ormai ridotto almeno al 100% del PIL secondo il piano originario, ma così non è stato, perché la crescita è stata così bassa che non ha consentito appunto di riportare il debito a una dimensione sostenibile. Quindi tutti quanti dovrebbero fare un passo indietro, sia i creditori nell'accorgersi che in qualche modo bisogna rivedere questo debito o comunque riscadenziarlo, e i greci che nello stesso tempo però devono promettere qualche riforma più incisiva, soprattutto appunto per recuperare la competitività che è stata perduta. Ti segnalo da ultimo che la BERS, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, di cui sto seguendo i lavori proprio in questi momenti, ha deciso di dare un fondo, un finanziamento speciale, pur non essendo la Grecia un paese in transizione perché la BERS era quella banca che doveva aiutare i paesi in transizione dall'economia pianificata all'economia di mercato, di dare per 5 anni 500 milioni di euro per aiutare appunto le piccole e medie imprese greche. Questo è un segnale evidente di come si sta cercando in tutti i modi di trovare una soluzione che aiuti la Grecia a uscire da questo caso situazione. In questo caso, Vittorio, quasi aggirando il problema, per così dire, no? Cioè si cerca di riprenderli da un altro lato, un lato che non sono i loro creditori, ma appunto la banca, la BERS, appunto, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, per cercare di avvicinarli ad una soluzione, in sostanza. Questa è più o meno l'idea. Sì, l'idea è quella di, insomma, non far vedere che questi soldi arrivano diciamo dalla ex troica, per intenderci, ma appunto dalla BES, di cui però appunto si sta discutendo in questi giorni nel meeting annuale della conferenza che si tiene in Georgia, a Tbilisi. E il meccanismo è stato quello di dire: aiutiamo la Grecia, che pur essendo membro di un paese dell'Eurozona, quindi assolutamente una delle zone più sviluppate economicamente, ha bisogno di un aiuto come se fosse un paese in transizione, quasi un riconoscimento postumo, quindi di qualche errore di valutazione ai tempi appunto dell'ingresso nell'euro. E quindi si sta cercando veramente in tutti i modi di trovare soluzioni nuove per un problema che appare finora insolubile. Ultima domanda che ti voglio fare sui tempi, Vittorio, perché le agenzie greche parlavano addirittura di una soluzione entro la serata o entro la nottata. Da quel che mi hai detto, dall'idea che mi hai dato, mi sembra improbabile. Sì, io penso sempre che ci siano forti aspettative. Naturalmente ci sono in corso anche dei colloqui, come tu sai, tra Mario Draghi e Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale. È probabile che parlino anche di questa situazione, perché sono entrambi creditori della Grecia. Insomma, io penso che ci voglia ancora qualche tempo per trovare questo compromesso, che non è impossibile. Tutti dovrebbero fare appunto un sano tuffo di realismo e fare, come si fa in tutti i compromessi, un passo indietro ciascuno e trovare una soluzione. Non vedo però una cosa molto vicina, sarebbe veramente auspicabile, perché la situazione ad Atene con la liquidità è veramente un disastro, perché ormai hanno raccattato tutti i fondi possibili, hanno messo anche tutta diciamo i fondi degli enti locali, dei comuni, in una cassa unica gestita dalla Banca Centrale Europea, e hanno pagato l'ultima rata del fondo monetario utilizzando addirittura le riserve che la stessa Grecia aveva presso lo stesso fondo monetario, ma che andranno ricostituite entro un mese. Quindi siamo veramente ormai agli sgoccioli. Agli sgoccioli. In qualche modo arrivi una rata. Boccata d'ossigeno. Una boccata d'ossigeno. Io ti ringrazio, Vittorio Darold, e non possiamo che concordare con l'ascoltatore Francesco, che ci dice: è una questione penosa e perché evidenzia l'inadeguatezza di un'intera classe politica europea. L'abbiamo ripetuto per tutti questi anni e continueremo a dirlo, perché questo accordo manca ancora e farlo è, come vedete, una fatica terribile. Traffico. Focus Economia. Nessuna reticenza. Una pensione tre volte il minimo sono 1500 euro, non l'abbiamo detto, ma perché ormai questa cifra l'abbiamo detta mille volte in queste settimane, quindi nessuna reticenza. Comunque ci arriveremo tra poco, alle 18:10, intanto i mercati che chiudono bene, molto bene. Più 1,45% il FTSE MIB, più 1,32 il FTSE OSHARE, Francoforte guadagna l'1,84, Parigi l'1,36, bene l'America, più 0,85 sul Dow Jones, più 0,72 sullo Standard & Poor's 500. Paolo Paronetto, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. le cose già andavano bene a metà giornata, poi sono arrivati i dati americani sui sussidi di disoccupazione, siamo ai minimi dal 2000 e immagino che i mercati abbiano festeggiato anche questo, no? Sì, esattamente, questo dato insieme poi alla partenza positiva, come ricordavi tu, di Wall Street ha fatto accelerare ulteriormente gli listini nazionali europei che hanno chiuso tutti tranne Londra con rialzi ben superiori anche al punto percentuale. Questo quindi a livello macro è stato il tema portante insieme all'ondata di trimestrali che evidentemente complessivamente sono state accolte positivamente dal mercato e hanno sostenuto molti titoli in tutta Europa. Sì, generali, utile nei tre mesi un più 3,3%, con premi complessivi a 20,1 miliardi, in crescita dell'8,3%, in effetti è il titolo migliore del listino più 3,8%. Bene, Atlantia più 3,37%, Luxottica più 3,23%, Banco Popolare più 2,5%, Iux più 2,38%. Devo dire che oggi trovare titoli negativi è difficile, Paolo. Ci sono solo Ferragamo meno 5,2%, Moncler meno 2,9%, Popolare di Milano meno 0,58% e Saipem meno 0,39%. Anche Snam ha diffuso la trimestrale, no? Sì, esattamente, anche Snam ha diffuso la trimestrale, anche in questo caso sono dati in crescita e il titolo ha chiuso in rialzo dell'1,84%, brevemente tra alcuni di quelli che hai citato, generali, hai detto i numeri principali sono stati superiori all'attesa del mercato, da qui quindi la performance del titolo che è stato il migliore di Piazza Affari, mentre per quanto riguarda Ferragamo, che è stato il peggiore, del FTSE MIB ovviamente, il peggiore, meno 5,28%, i conti sono stati in realtà in crescita e anche fondamentalmente in linea con l'attesa del mercato. In questo caso molti analisti si concentrano sulla performance recente del titolo, che nell'ultimo anno ha guadagnato circa il 40%, portandosi a multipli superiori a quelli della media del settore, quindi diciamo che si tratta più che altro presi di beneficio, visto un titolo che ha già corso parecchio. Bene, si diceva Luxottica più 3,23%, Banco Popolare più 2,59%, anche qua conti migliori delle attese. Monte dei Paschi? Monte dei Paschi è stato protagonista di una seduta molto volatile, è partito male e ha chiuso in rialzo dell'1,07%. Ieri è stata resa nota la lettera della BCE che, autorizzando l'aumento di capitale da 3 miliardi e il rimborso dei monti bond, ha ricordato che la ricapitalizzazione non è sufficiente a risolvere i problemi strutturali della banca e ha ricordato l'esigenza di un'aggregazione. Quindi se in avvio erano prevalsi i timori sulla solidità della banca, visto che la BCE dice ufficialmente che l'aumento non basta, poi nella seconda parte della seduta hanno prevalso le speculazioni in vista di possibili aggregazioni, quindi il titolo ha chiuso in rialzo. Ha chiuso in rialzo. A proposito di trimestrali, Ferragamo non è piaciuta molto ai mercati, questa mi sembra di capire, il titolo peggiore meno 5,2%. Più che altro sì, non è piaciuta e soprattutto si tratta di prese di beneficio dopo i recenti rialzi. Ti posso citare anche Moncler, sì, in questo caso, che ha fatto meno 2,94%, però c'è da dire anche in questo caso una storia simile. Ieri il titolo dopo la trimestrale aveva guadagnato quasi il 10%, oltre il 9%, e inoltre un altro tema sul titolo è che il fondo di private equity Eurazeo ha annunciato la vendita del 7,8% del capitale e quindi naturalmente questo è un fattore che penalizza il titolo nel breve periodo. Come si diceva, giù anche la Popolare Milano, meno 0,58%, Saipem meno 0,39%, tra i titoli non brillantissimi troviamo, pur sempre in positivo, Ansaldo più 0,26%, così come Pirelli, così come Telecom Italia che guadagna lo 0,28%, Buzzi Unice mezzo punto percentuale, UbiBanca un altro mezzo punto percentuale, Intesa San Paolo che guadagna lo 0,55%. Un'ultima nota in 10 secondi, Paolo, la Juventus dopo la vittoria di ieri in Champions. Sì, la Juventus conquista la finale di Champions League e ovviamente la borsa applaude, il titolo ha chiuso in rialzo del 3,35%. Così dunque la Juventus, grazie a Paolo Paronetto di Radio Corri Il Sole 24 Ore. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede nel mondo al di fuori dell'economia con GR24, ci ritroviamo subito dopo e, visti anche i tanti sms, il tema che fa discutere e dibattere, ci occuperemo esattamente di pensioni, sentiremo l'intervista al presidente di Manager Italia e ne parleremo col collega del Sole 24 Ore, Davide Colombo. A tra poco. State ascoltando un programma offerto da Made in Steel, l'acciaio mondiale si incontra a Fiera Milano dal 20 al 22 maggio. Focus Economia. Buonasera da Simone Spezia, benvenuti alla seconda parte di Focus Economia. E veniamo al tema che abbiamo annunciato fin dall'inizio, ancora una volta quello delle pensioni, della restituzione, della mancata indicizzazione all'inflazione delle pensioni oltre le tre volte il minimo che era contenuta nel decreto Salva Italia, era contenuto il blocco dell'indicizzazione e che è stato bocciato dalla Corte Costituzionale per gli anni 2012 e 2013. Si stanno valutando varie ipotesi. Nel frattempo io quello che vi posso dire è che stanno uscendo i dati interessanti all'Ufficio parlamentare di bilancio. Anche qua vi raccomando sempre di cercare di andare alla fonte, così come vi ho detto prima. Se potete, se ne avete la possibilità, andate su internet, sul sito della Corte Costituzionale e vi potete leggere la sentenza che vi consente anche di farvi un'idea. Così come potete andare sul sito dell'Ufficio parlamentare di bilancio, dove ci sono delle pagine dedicate proprio a questo tema e al possibile impatto sui bilanci pubblici e anche sulle tasche dei pensionati. Comunque l'ipotesi sulla quale sta ragionando il governo è di non restituire tutto perché i soldi non ci sono. Davide Colombo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Ciao Davide, con te parleremo tra un attimo, tra l'ipotesi allo studio, l'hai scritto oggi sul Sole 24 Ore, c'è quella di restituire un solo anno dei due. Ci verremo tra un momento. Intanto io voglio farvi sentire l'intervista che abbiamo realizzato oggi in effetto giorno. Ne avete sentito un passaggio se siete in ascolto dalle 17 all'inizio della trasmissione. Vi facciamo sentire una parte un po' complessiva. È un'intervista che abbiamo realizzato con Guido Carella, presidente di Manager Italia. È l'associazione che con Federmanager ha assistito e sostenuto anche finanziariamente per le spese legali quelli che hanno fatto ricorso contro questa norma. Allora, con lui abbiamo detto, ma se lo Stato procedesse in questa direzione, oppure se limitasse, se mettesse un tetto ai rimborsi, voi che cosa fareste? Perché insomma, un conto sono le pensioni tre volte il minimo, che sono 1.400 euro lordi, 1.500 euro lordi. Un conto sono quelle da 5.000 euro lordi al mese. Sentiamo Carella. Un intervento che preveda rimborsi solo ad alcune fasce di pensionati, oppure, come diceva lei, una graduazione con restituzioni parziali, sarebbe ancora una volta, a nostro avviso, illegittimo. Noi siamo pronti, nel caso dovesse essere questo tipo di decisione, a rifare un ulteriore ricorso alla Corte. Tra l'altro tutti quelli che percepiscono oggi un trattamento superiore a tre volte il minimo saranno legittimati a chiedere il rimborso della rivalutazione non corrisposta per il 2012 e per il 2013, e tra l'altro anche a chiedere le rivalutazioni sulla base su una diversa base di calcolo che tenga conto di questo recupero anche per il 2014 e il 2015. Quindi, noi non abbiamo una chiusura pregiudiziale, però aspettiamoci, se il governo non ascolterà le eccezioni, i pensionati potranno fare ricorso facendo valere questa eccezione pregiudiziale di incostituzionalità, e questo, diciamo, porterebbe ulteriori scompensi alle casse dello Stato, perché allo Stato toccherà pagare anche le spese processuali e gli interessi. Aspettiamoci un ricorso in massa. Non le sembra, Carella, una, una forma di ingiustizia, se vogliamo, anche nei confronti delle generazioni, se ne è parlato molto di questo. Cioè, se il governo a un certo punto decidesse, va bene, non facciamo sopra i 3.000 euro o i 3.500, non lo facciamo. Va bene, la progressività è nei fatti già, da quando si calcola la pensione a come si gestisce poi durante le pensioni. Ma però oltre alla progressività che noi condividiamo e che già paghiamo, c'è bisogno anche di affermare un altro principio costituzionale, quella della universalità, perché altrimenti andiamo a colpire soltanto una fascia e questo è un prelievo fiscale in debito. Però Carella, dico questo, no? Ha un pensionato da 5.000 al mese, per quanto lordi, quella rivalutazione del 2012 e del 2013 non è che gli cambia la vita, no? Sì, però ripeto, bisogna affermare dei principi di universalità e soprattutto fare delle valutazioni prospettiche. Noi diciamo sempre che i nostri giovani se ne vanno all'estero perché in Italia non riescono a trovare lavoro o perché ci sono altre condizioni ambientali che non lo permettono, però c'è un altro motivo. Oggi si sta affermando una condizione che fa in modo che si possa dire che chi guadagna molto è in colpa. Nel senso che non funziona più, non è più un'aspirazione quella di crescere, perché se si guadagna molto si è da una parte taglieggiati dal fisco, dall'altra parte nemmeno in prospettiva quello che può essere deve essere una retribuzione differita va a inserirsi in un contesto dove la certezza del diritto è sempre affermata. Questo vuol dire che se un giovane già oggi ha la percezione, la conferma che lo Stato non garantisce un patto, questo deve essere considerato, perché stiamo in effetti facendo male per il futuro, non soltanto per il presente. Certo, posto che un giovane di oggi per avere una pensione da 5.000 euro al mese di contributi ce ne deve mettere parecchi, a differenza di chi è andato in pensione col retributivo. Davide Colombo del Sole 24 Ore. Davide, quali soluzioni si stanno profilando dunque? Posto che potrebbero essere contestate pure queste, come abbiamo sentito. Ma certo, diciamo che le valutazioni dei ricorrenti sono piuttosto forti. Se posso dire brevissimamente, intanto la Corte non ha riconosciuto una fiscalità indebita, cioè non ha riconosciuto una violazione dell'articolo 53 della Costituzione, ma ha ritenuto una violazione dell'articolo 36-38 della Costituzione perché la temporaneità del blocco è troppo lunga, 2 anni, e la mancata gradualità è determinata dal fatto che si è scesi fino alla soglia di 3 volte il minimo, cioè a pensioni lorde di 1.480 euro. Ciò detto, il governo è orientato evidentemente a una restituzione parziale, progressiva, cioè giustamente proporzionale al livello di reddito pensionistico e evidentemente anche con delle rate negli anni a venire. Le compatibilità di finanza, cioè il quadro di finanza pubblica è noto ai nostri ascoltatori, credo abbastanza bene. Quindi noi dobbiamo tenere un deficit nominale al 2,6% quest'anno per evitare di uscire dal cosiddetto braccio preventivo della disciplina di bilancio europeo, che ci consente di avere una flessibilità maggiore per l'anno prossimo di circa 6,4 miliardi di margine fiscale spendibile. Sì. Sappiamo che la legge di stabilità per l'anno prossimo è già prenotata per 10 miliardi di minori spese da fare con la spending review, tutti da trovare. Sì, ammesso che si riesca, appunto, te lo stavo per dire, insomma. Tutti da trovare, quindi diciamo che il margine è questo. Sicuramente quello che il governo metterà in campo per questi rimborsi, 2, 3, 4 miliardi, vedremo, modificherà la traiettoria della spesa corrente di quest'anno, per cui la regola della spesa diventa molto a rischio. E quindi in questo quadro bisogna fare una riflessione. Naturalmente ci sono i diritti acquisiti, ci sono e anche Davide, mi sembra di poter dire, nei termini nei quali ci raccontavi la sentenza della Corte, capire esattamente, dato, come già si diceva prima, la Corte probabilmente non poteva fare diversamente, non ha dato delle cifre, capire all'interno di questa sentenza della Corte come ci si possa muovere per rispettare il dettato della Corte senza dover mettere tutti i soldi. Un ascoltatore ci scrive: l'ingiustizia sta nel non rispettare la sentenza. Su questo avrei qualcosina da dire, ma lo facciamo dopo il traffico. Focus Economia. E a proposito di ricorsi, fatevi dare questa notizia: la Giunta della Regione Lombardia ha dato mandato all'avvocatura di presentare ricorso contro la riforma delle banche popolari approvata dal governo, come chiedeva una mozione approvata nelle scorse settimane dal Consiglio regionale lombardo. Lo riferisce l'ANSA, lo si apprende da una nota della lista Maroni. All'ascoltatore che diceva è un'ingiustizia, l'ingiustizia sta nel non rispettare la sentenza della Corte Costituzionale, può darsi che lei abbia perfettamente ragione, anzi ha sicuramente ragione. Detto ciò, non ci esimiamo dal dire che questa sentenza crea dei problemi per i conti pubblici e crea dei problemi di equità, perché eravamo nel 2012 in una situazione di grande difficoltà finanziaria, quella norma è stata varata. Ripeto, sulle pensioni più alte forse un ragionamento si può fare. È come la questione dei vitalizi dei deputati. Non si possono toccare, d'accordo, i vitalizi di alcuni deputati. Questo non toglie che noi per certi aspetti li troviamo ingiusti. E non mi riferisco alle pensioni tre volte il minimo, mi riferisco a quelle 10 volte il minimo che riceveranno 8.000 euro in una botta i pensionati a 10 volte il minimo a causa della rivalutazione dopo la sentenza della Corte. Ancora, Davide Colombo. Eccoci qua. Ti dicevo, sembra che appunto nelle more della sentenza i margini di manovra si possano trovare, da quello che ci dicevi. Sì, ieri il vice ministro dell'economia Enrico Morando, riferendo in commissione bilancio al Senato, ha appunto insistito su questi due aspetti, cioè la temporaneità e la gradualità. Questi sono i due elementi che, dalla lettura che il governo dà della sentenza, hanno fatto eccepire la incostituzionalità del blocco. E quindi si può dedurre che se sulla temporaneità si interviene, per esempio, restituendo solo uno dei due anni, e quindi allineando l'intervento a quello che era stato fatto dal governo Prodi nel 2007, quindi un solo anno anziché due di blocco, con una restituzione gradualizzata sui redditi pensionistici, potrebbe essere quella la strada che il governo utilizzerà per risolvere la questione. Risolve la questione comunque esaurendo i margini di finanza pubblica per l'anno in corso, perché noi avevamo aperto un dibattito sul ipotetico tesoretto da 1,6 miliardi per l'anno in corso. Ecco, adesso stiamo parlando di un intervento di almeno 2-3 miliardi minimo. E quindi ecco qua le cifre con cui stiamo ragionando. Se non di più, appunto. Scusami Davide, ma ci sono delle stime precise? Perché io questo non sono ancora riuscito a capirlo. Nel caso di una restituzione completa, ossia di un rispetto completo della sentenza della Corte, quanti quattrini dovrebbe tirar fuori lo Stato? Quelli sono contenuti nella relazione tecnica che è allegata al Salva Italia. Quindi sommando i due anni 12 e 13 congelati più la rivalutazione del 14 e 15 sulle basi evidentemente aggiornate del 12 e 13, verrebbe all'incirca in termini lordi un punto di PIL, circa 16-17 miliardi lordi, intendo dire, nel senso che se tu restituisci tutte queste risorse ai pensionati che stanno tre volte sopra il minimo, naturalmente hai un effetto IRPEF molto importante che ti fa ritornare maggiori entrate che compensano in parte queste uscite, riducendo questo lordo a circa 8,7-8,9 miliardi. Senza considerare poi naturalmente, Davide, l'effetto a cascata sugli anni successivi, no? Perché queste rivalutazioni poi vanno considerate anche per gli anni successivi a questo punto. Certo. ovviamente. Certo, ovviamente sulla spesa per indicizzazione delle pensioni dal 2016 in poi ci sarebbe un effetto. Tra l'altro, su questo tema, se posso aggiungere una piccola considerazione, brevissimamente, forse questa sentenza potrebbe essere colta come occasione per riflettere sul fatto che il meccanismo di indicizzazione delle pensioni potrebbe essere magari risolto e sottratto dalla scelta politica che si può determinare di volta in volta a seconda della crisi finanziaria che c'è. Nel senso che se noi entriamo in una situazione macroeconomica con un'inflazione stabile attorno ma poco sotto al 2%, e immaginando una tenuta negli anni di questo livello, potremmo anche appunto utilizzare questa sentenza per dare un criterio stabile di rivalutazione delle pensioni che dura negli anni, senza continuare a modificarlo, cambiando appunto il quadro dei diritti dei pensionati e quindi appunto con tutte le conseguenze costituzionali che abbiamo di fronte ora. Grazie, Davide Colombo del Sole 24 Ore, buona serata e buon lavoro. Prima di chiudere facciamo un bel punto, come annunciato in apertura, sul petrolio. Un anonimo funzionario saudita al Financial Times ha detto: la nostra strategia, che è quella di tenere bassi i prezzi del petrolio, di averli fatti abbassare bruscamente, sta funzionando. I dati diffusi dall'Agenzia Internazionale dell'Energia sembrano dimostrarlo, perché Sissi Bellomo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Se l'obiettivo era lo shale oil americano, sembra che ci siamo. Ne hanno frenato la crescita, che era stata vorticosa, veramente vorticosa. In pochi anni gli Stati Uniti hanno quasi raddoppiato la produzione petrolifera grazie allo shale. Sicuramente ha smesso di crescere. Basta questo per dichiarare la vittoria da parte dell'OPEC, da parte dell'Arabia Saudita. Ma se si accontentano, secondo me avevano delle aspettative superiori, che sarebbero state quelle di spingere davvero a chiudere, a fallire un certo numero di questi produttori, ed erano delle aspettative anche giustificate, perché un settore mentre invece questo non è avvenuto, non massicciamente come loro si attendevano. Non è avvenuto massicciamente, devo dire che sono rimasta sorpresa anch'io, un po' come probabilmente i sauditi non ammetteranno mai. Queste piccole società che hanno utilizzato il fracking per liberare queste enormi quantità di petrolio non sono i colossi del petrolio, non è la Exxon, anche se anche la Exxon lo fa in parte, sono soprattutto piccole società che hanno finanziato le loro attività a leva, a debito, indebitandosi tantissimo, che hanno flussi di cassa negativi, ce li avevano persino quando il petrolio vendeva $100 più al barile, e nonostante tutto continuano a trovare denaro, la cosa che lascia veramente a bocca aperta. È come negli Stati Uniti ci sia ancora un fiume di denaro disponibile a finanziare questa e altre attività, e come insomma si siano salvati, hanno fatto emissioni azionarie, hanno emesso nuove obbligazioni spazzatura, ovviamente, perché sono ad altissimo rischio insolvenza, ma hanno trovato chi le ha comprate, hanno trovato chi li finanzia, magari a costi più elevati, ma continuano a produrre. In più hanno fatto progressi dal punto di vista tecnico, ecco, perché producono anche a minor costo. Esatto, questo è il punto che mi interessava. Qual era il punto di pareggio di prezzo del petrolio che consentiva a queste aziende? Sempre stato difficile identificarlo, perché è molto variabile a seconda di dove trivelli, a seconda di quale azienda sei, di quale livello di tecnologie usi, e poi è molto variabile nel tempo, anche perché sono tecnologie relativamente nuove. In realtà è l'abbinata fra la trivellazione in orizzontale invece che in verticale con la fratturazione idraulica, che è relativamente recente, le due tecniche già erano state utilizzate in passato, e per cui è difficile stabilire una soglia valida per tutti. E ci sono dei produttori che in certi posti vuol dire a volte anche a un chilometro di distanza l'uno dall'altra riescono a produrre anche a $20 al barile, e altri che invece hanno bisogno di 80-90. Insomma, gli studi stessi fanno fatica a identificare un break-even point, come si suol dire. A questo punto hanno faticato evidentemente anche i sauditi a identificare. identificare il punto esatto. Forse questo aspetto lo potevano anche conoscere e sapere. I sauditi ovviamente sono dei grandissimi esperti di petrolio, hanno fra i tecnici migliori al mondo, di grande qualità professionale anche. E quello che non hanno, che hanno sottovalutato forse, la disponibilità del sistema Stati Uniti a finanziare continuamente queste società, finanziarle moltissimo. Forse cambierà quando la Federal Reserve rialzerà il costo del denaro, sì, quando ci sarà meno denaro facile, eccetera eccetera, però da questo punto di vista, come sappiamo, la Fed sembra aver un po' rinviato il suo obiettivo. Grazie a Sisi Bellomo del Sole 24 Ore per questo aggiornamento e questi chiarimenti. Grazie a Filippo Aureggi in regia, Barbara Bianchi in assistenza in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, le mie scuse a Giuseppe Cruciani per il minutino di ritardo. Noi ci risentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno. Radio 24. La passione si sente.